Durante tutta la malattia di Anne, Charlotte ebbe il conforto di parlare apertamente con lei del suo stato d'animo, in contrasto col rifiuto di Emily di accettare qualsiasi compassione nei suoi ultimi giorni. Quando veniva proposta una nuova cura, Charlotte poteva parlarne con lei e le sorelle, quella che assisteva e quella che declinava, potevano consultarsi sull'opportunità di adottarla. Ho potuto prendere visione di un'unica lettera di Anne. È la sola volta in cui siamo messi in diretto contatto con quella mite, paziente giovinetta. Per dare la necessaria informazione, devo dire che la famiglia di E aveva proposto di ospitare Anne per verificare se un cambiamento d'aria, di regime e la compagnia di persone dal caldo cuore affettuoso potesse contribuire a restituirle la salute. In risposta a quell'offerta, Charlotte aveva scritto: 24 marzo. Ho letto la tua gentile e affettuosa lettera ad Anne che mi chiede di ringraziarti di cuore per la tua proposta. Naturalmente si rende conto che accettarla, imponendo così la presenza di un'inferma agli abitanti di non è cosa da farsi. Ma mi incarica di dirti che vi è un altro modo in cui puoi renderti utile e forse con un certo beneficio anche per te. Se da qui a un mese o due si dovesse decidere che può farle bene andare al mare oppure in una qualche stazione termale, e se papà non si sentisse di muoversi e io fossi perciò costretta a restare a casa, tu saresti disposta a farle compagnia? Naturalmente non occorre dire che nell'eventualità di una simile combinazione non dovresti affrontare alcuna spesa. Questa è, cara, e la proposta di Anne. Te la comunico per compiacere al suo desiderio, ma da parte mia devo aggiungere che vedo serie obiezioni al che tu l'accetti, obiezioni che non posso sottoporre a lei. Continua fra alti e bassi, migliora e peggiora secondo il cambiamento del tempo, ma nell'insieme temo che stia perdendo le forze. Papà pensa che il suo stato è assai precario. Può essere risparmiata per un certo tempo, ma una improvvisa alterazione può portarla via senza che chi le è vicino se ne accorga. Se ciò dovesse avvenire, essendo lei lontana da casa e sola con te, sarebbe terribile. Non so dire lo sgomento che una simile eventualità mi ispira, e ogni volta che accenna all'eventualità di un viaggio, tremo. A farla breve, vorrei guadagnar tempo e vedere come tira avanti. Se deve lasciare la casa, non potrà certamente essere nel capriccioso mese di maggio, proverbialmente severo per le persone deboli. Se potessimo arrivare fino a giugno. Ho buone speranze di farle attraversare l'estate. Scrivi una risposta a questa lettera, tale da poter essere mostrata ad Anne. Puoi scrivere qualsiasi altra cosa in un foglio a parte, solo per me. Non ti considera costretta a discutere unicamente le nostre tristi vicende. Mi interessa tutto quanto ti interessa. Da Anne Bronte, 5 aprile 1849. Cara Miss E. La ringrazio moltissimo per la sua gentile lettera e per la sua gentile disposizione ad aderire al mio progetto, almeno fin dove la volontà può farlo. Mi rendo conto che i suoi sono contrari al vederla prendere la responsabilità di accompagnarmi nelle mie presenti condizioni, anche se non credo che vi sarebbe una così grande responsabilità nel farlo. Io so, e tutti sanno, che lei sarebbe tanto capace di bontà e di dare aiuto quanto e più di chiunque altro, e da parte mia spero che non le darei molto fastidio. In qualità di compagna, non di infermiera, che la vorrei con me, non mi azzarderei a sollecitarla altrimenti. In quanto al suo cortese e reiterato invito a recarmi la prego, porga i miei ringraziamenti a sua madre e alle sue sorelle, ma dica loro che non posso infliggere agli altri la mia presenza nelle condizioni in cui mi trovo. È molto gentile da parte loro tenere in così poco conto il disturbo che ne deriverebbe, ma più o meno pesante ci sarebbe e certamente non ricavereste nessun piacere dalla compagnia di un'estranea, silenziosa e ammalata. Spero che in un modo o nell'altro Charlotte troverà la maniera di accompagnarmi. Dopotutto è certamente di salute molto delicata anche lei e ha urgente bisogno di un cambiamento d'aria e di ambiente per consolidare la sua tempra. In ogni modo, non posso sperare nella sua compagnia prima della fine di maggio, a meno che la probabile visita degli ospiti attesi non avvenga, ma io sono riluttante ad aspettare fino a quella data, per poco che le condizioni del tempo permettano di partire prima di allora. La prima parte del mese è piuttosto fredda, lo ammetto, ma secondo la mia esperienza si può contare quasi certamente su alcune belle giornate tiepide nella seconda, quando i laburni e il lilà sono in fiore. Mentre giugno spesso è freddo e luglio per lo più piovoso. Ma ho un motivo più serio di questo per la mia insofferenza a ogni indugio. I dottori dicono che il cambiamento d'aria, il trasferimento in un clima migliore, non mancano quasi mai di avere successo nei casi di tubercolosi, se al rimedio si fa ricorso in tempo. La ragione di tante frequenti delusioni dipende dal ritardo nel ricorrervi. Io non vorrei commettere quest'errore e vedo che, benché soffra assai meno per i dolori e per la febbre di quando lei era da noi, sono senz'altro più debole e notevolmente più magra. La tosse dà ancora un bel po' di fastidio, specialmente di notte, e quel che mi sembra peggio di tutto, vado soggetta a respiro affannoso quando salgo le scale oppure se faccio un qualsiasi leggero sforzo. Penso che non ci sia tempo da perdere. La morte non mi fa orrore. Se la considerassi imminente, mi rassegnerei tranquillamente a questa prospettiva, con la speranza che lei, cara Miss E, darà quanto più possibile della sua compagnia a Charlotte e prenderà presso di lei il posto di sorella. Ma spero che sia volontà divina risparmiarmi, non solo per amore di papà e di Charlotte, ma anche perché bramo di far qualcosa di buono nel mondo prima di lasciarlo. Ho molti progetti in mente da tradurre in atto, umili e limitati, in verità. Però non vorrei che tutti finissero in nulla. Non vorrei essere vissuta con così poco costrutto, ma sia fatta la volontà divina. Mi rammenti rispettosamente a sua madre e alle sue sorelle, e mi creda, cara Miss E, la sua affezionatissima Anne Bronte. Deve essere stato su per giù alla stessa epoca che Anne compose i suoi ultimi versi, prima che la scrivania fosse chiusa e la penna messa da parte per sempre. Speravo che con i valorosi e i forti la mia parte di lavoro trovasse posto, di faticare in mezzo alla folla affaccendata con propositi puri ed elevati. Ma il divino ha deciso altrimenti, ebbene ha deciso. Lo dissi col cuore sanguinante quando dapprima l'angoscia mi investì. Tu, Dio, hai preso la nostra delizia. La speranza di cui facevamo tesoro ora ci comandi di attraversare la notte piangendo, di vivere la giornata nel dolore. Queste ore logoranti non saranno vane. Questi giorni di desolazione, queste notti di tenebre agitate dall'angoscia, se solamente mi rivolgo a Dio, con segreta fatica per sopportare in umile pazienza ogni colpo, per ricavare fortezza dalla pena e speranza e santità dal dolore. Perciò lascia che io ti serva dal profondo del cuore, qualsiasi sia il fato scritto per me, sia se dovrò partirmene per tempo o aspettare ancora un poco. Se tu volessi ridarmi alla vita, io sarei più umile, più saggia, più fortificata per la lotta, meglio capace di appoggiarmi a te. Se dovesse la morte essere sulla soglia, così manterrei la promessa. Ma, oh Signore, qualsiasi sia il mio destino, oh lascia che io ti serva ora. Cito le parole di Charlotte come miglior testimonianza dei suoi pensieri e dei suoi sentimenti durante quel terribile periodo. 12 aprile. Leggo la lettera che Anti ha scritto. Come dici, è molto commovente. Se al di là di questa vita terrena non vi fosse speranza, non vi fosse l'eternità, nessuna vita futura, il destino di Emily e quello che minaccia Anne spezzerebbe il cuore. Non posso dimenticare il giorno della morte di Emily. È divenuta per me un'idea fissa, più cupa, più ostinata che mai. Ella fu strappata, conscia, ansante, riluttante, benché risoluta, da una vita felice, ma non serve indugiare su questi pensieri. Sono contenta che i tuoi abbiano fatto obiezione a che tu accompagnassi Anne. Non sarebbe servito a nulla. A dire la verità, anche se tua madre e le tue sorelle avessero consentito, io non avrei mai potuto farlo. Non è che si debba prestarle attenzioni faticose, ella richiede poche cure e non ne accetterebbe di più, ma ci sarebbe un rischio, una tensione mentale ai quali tu non devi essere assoggettata. Se da qui a un mese, o diciamo 6 settimane, continuerà a desiderare un cambiamento come lo fa ora, andrò con lei, io stessa. Sarà certamente il mio dovere. Altre incombenze dovranno cedere a questa. Ho consultato Mr. T, non fa obiezioni e raccomanda Scarbrough, che anche Anne preferisce. Spero Che ogni cosa si aggiusti in modo che tu possa stare con noi almeno parte del tempo, in stanze private o no, preferisco stare a pensione. Farsi da mangiare è insopportabilmente noioso, penso. Non mi piace riempire di provviste un cassettone, chiuderlo a chiave, essere derubati e tutto il resto. È un lavoro meschino e pesante. Il progredire della malattia di Anne fu più lento di quella di Emily, e lei era troppo generosa per rifiutare un aiuto che, anche se non aveva alcuna speranza di successo, pure poteva dare una triste soddisfazione ai suoi cari. Cominciavo a illudermi che stesse riprendendo le forze, ma l'arrivo del gelo è stato pesante per lei, soffre di più ultimamente. Tuttavia, la sua malattia non ha nulla dei terribili e rapidi sintomi che ci spaventarono nel caso di Emily. Se solo arrivasse la primavera, l'estate potrebbe farle molto bene, e poi lo spostarsi in un clima più mite per l'inverno successivo potrebbe almeno allungarle la vita di un poco. Oh, se potessi contare su un altro anno, ne sarei felice, ma non possiamo esserne certi, neppure quando uno gode di buona salute. Qualche giorno fa ho scritto al dottor Forbes per avere la sua opinione. Ci ha messo in guardia dall'intrattenere troppe speranze. Ritiene l'olio di fegato di merluzzo una medicina molto efficace, anche se anche lui sconsiglia un cambio di residenza per il momento. C'è una modesta consolazione nel pensare che stiamo facendo tutto quanto è possibile fare. L'agonia di una forzata trascuratezza non ci angustia ora come lo fece durante la malattia di Emily. Non ci toccherà mai più patire come allora. Oh, è stato terribile, terribile. Ultimamente ho provato meno di frequente il generale indolenzimento e la raucedine. Ho sperimentato degli impacchi di aceto caldo che sembra mi abbiano fatto bene. 1º maggio. Ho sentito con piacere che quando andremo a Scarborough sarai libera di venire con noi, ma quel viaggio e le sue conseguenze continuano a essere per me fonte di grande ansietà. Vorrei tentare di rimandarlo di 2 o 3 settimane, se possibile. Forse allora la temperatura più mite avrà dato più forza ad Anne. Forse avverrà il contrario. Non posso pronunciarmi con certezza. Fino a questo momento l'arrivo del bel tempo non le ha giovato. Durante questi ultimi giorni a tratti è stata così debole e il dolore al fianco è stato così lancinante che non so cosa pensare. Può darsi che si riprenda una volta di più. Ma devo vedere un qualche miglioramento prima di farla partire da casa. Eppure il procrastinare è penoso, come si dà sempre il caso, credo, in situazioni simili. Lei non sembra capire il perché dell'indugio. Si chiede, credo, perché io non parli più spesso del viaggio. Mi addolora il pensare che forse questa mia apparente lentezza la ferisca. È molto emaciata, molto più di quanto sei stata qui l'ultima volta. Le braccia sembrano quelle di una bimbetta. Il minimo sforzo le toglie il fiato, esce un poco ogni giorno, ma più che camminare ci trasciniamo. Papà continua abbastanza bene, spero che a me riuscirà di resistere. Fin qui ho motivo di ringraziare la provvidenza. Il maggio è raggiunto, portando con sé la tanto desiderata temperatura mite. Ma proprio quel cambiamento del clima aveva fatto peggiorare Anne. Alcuni giorni più tardi la temperatura diminuì e Anne si riprese. La povera Charlotte incominciò a sperare che trascorso il maggio la sorella avrebbe potuto resistere ancora a lungo. Miss Bronte scrisse per fissare le stanze a Scarborough, località che in passato Anne aveva visitato insieme con la famiglia, presso cui era governante. Occuparono un ampio soggiorno e un'ariosa camera a 2 letti, i 2 ambienti con vista sul mare, in una delle migliori posizioni della città. Il denaro non contava, messo sulla bilancia con la vita. Anne possedeva un modesto legato lasciatole dalla madrina e pensavano che non poteva impiegarlo in modo migliore che nel garantirsi quanto poteva, se non restituirle la salute, almeno prolungarle la vita. Il 16 maggio Charlotte scrive: faccio i preparativi con un peso nel cuore e vorrei ardentemente che la stanchezza del viaggio fosse cosa passata. Potrebbe venire sopportata meglio di quanto prevedo. Una distrazione occasionale spesso può molto, ma ah, quando vedo la stanchezza che aumenta di giorno in giorno, non so più cosa pensare. Temo che tu sarai dolorosamente colpita quando vedrai Anne, ma stai in guardia, cara e non lasciar trapelare le tue impressioni. So che in verità posso fidarmi del tuo controllo e della tua delicatezza. Vorrei che il mio buon senso approvasse la decisione del viaggio a Scarborough più di quanto non lo faccia. Chiedi come ho provveduto a papà. Non ho potuto prendere speciali disposizioni. Desidera che io vada con Anne e non vuol sentir parlare di far venire alla canonica Mr. N o chiunque altri. Così faccio quanto mi sembra essere il meglio e affido ogni cosa alla provvidenza. Avendo deciso di pernottare a York e secondo il desiderio di Anne farvi alcune compere, Charlotte chiude la lettera nella quale espone all'amica quanto sopra con le seguenti righe. 23 maggio. Vorrei che non sembrasse un macabro scherzo il parlare di comprar cappelli e via dicendo. Anne è stata molto male ieri. Ha respirato a fatica per tutto il giorno, anche quando sedeva immobile. Oggi sembra nuovamente migliorata. Vorrei tanto, tanto che fosse già giunto il momento in cui verrà tentata l'esperienza dell'aria marina. Le farà bene? Non lo so dire. Posso solamente sperare. Oh, se la provvidenza volesse dar forza e ravvivare Anne, quanto saremmo felici tutte insieme. Sia fatta, tuttavia, la sua volontà. Le sorelle lasciarono Haworth il giovedì 24 maggio. Avrebbero dovuto partire il giorno prima e avevano preso appuntamento con l'amica alla stazione di Leeds per continuare il viaggio insieme, ma il mercoledì mattina Anne si era sentita tanto male che era stato impossibile mettersi in viaggio. Non avevano modo di avvertire l'amica, che perciò giunse alla stazione di Leeds all'ora convenuta e vi rimase ad aspettare per alcune ore. Sul momento le sembrò strano, ma ora pensa che sia stato un segno premonitore, che a due riprese con due diversi convogli giunti sulla linea da dove aspettava le amiche venissero scaricate due bare, che furono poi poste sui carri funebri in attesa dei loro morti, mentre lei aspettava una che 4 giorni dopo sarebbe morta. Il giorno successivo, non sopportando più l'inutile attesa, si mise in viaggio per Haworth, dove giunse appena in tempo per aiutare l'indebolita inferma sul punto di venir meno a salire sulla carrozza, ferma al cancello, pronta a condurle a Keighley. La domestica, ritta sulla soglia della canonica, lesse la morte scritta su quel viso e lo disse. Anche Charlotte la vide, ma non disse verbo. Sarebbe equivalso a dare una forma troppo precisa al timore, e se quest'ultima creatura, lei carissima, anelava di recarsi a Scarborough, là si doveva andare, senza che l'imminente catastrofe, il cui timore straziava il cuore di Charlotte, fosse di ostacolo. La giovane signora che le accompagnava, amatissima amica di Charlotte da 20 anni e più, ha cortesemente scritto per me il resoconto del viaggio e della fine. Lo trascrivo. Lasciò la sua casa il 24 maggio 1849. Morì il 28 maggio. La sua vita era stata calma, quieta, spirituale, tale fu la sua fine. Durante la prova e la stanchezza del viaggio dimostrò il pio coraggio e la forza di una martire. Il dover dipendere, l'essere impotente, furono sempre per lei una prova assai più penosa di qualsiasi sofferenza fisica. Prima tappa del viaggio fu York e lì la cara inferma si ravvivò talmente, fu così allegra, così felice, che ce ne derivò consolazione e confidammo che un miglioramento temporaneo sarebbe derivato dal cambiamento che aveva tanto desiderato e che quelli a cui era cara avevano tanto temuto per lei. A sua richiesta ci recammo alla cattedrale, dove gustò un piacere travolgente, non solamente per l'imponente e impressionante maestà di quella struttura, ma soprattutto perché essa dava alla sua indole ricettiva un senso di onnipotenza vitale. Disse, mentre la fissava: «Se un potere limitato può fare questo, qual è il...» E qui l'emozione le troncò la parola e la conduceva in tutta fretta a godere uno scenario meno impressionante. La debolezza fisica era grande, ma la riconoscenza per qualsiasi grazia era ancora maggiore. Dopo aver raggiunto, camminando con sforzo, la sua camera, giungeva le mani, alzava gli occhi in silenzioso ringraziamento e lo faceva senza escludere una preghiera, perché anche questa venne fatta in ginocchio prima di accettare il riposo del letto. Giungemmo a Scarborough il 25. La cara inferma, durante il viaggio, attirò la nostra attenzione su ogni prospettiva meritevole di essere notata. Il 26 uscì in calessino sull'arenile per un'ora e, per evitare che il povero asinello fosse spronato a una maggiore velocità dal cocchiere, prese le redini e lo guidò lei stessa. Quando la raggiungemmo, stava raccomandando al ragazzo, proprietario dell'animale, di trattarlo bene. Era sempre stata amante delle creature prive di parola ed era pronta a rinunciare ai propri comodi in loro favore. La domenica 27 desiderò recarsi in chiesa e gli occhi le splendevano al pensiero di adorare ancora una volta il suo Dio insieme con gli altri fedeli. Pensammo che fosse più prudente dissuaderla da quel tentativo, benché fosse evidente che desiderava di tutto cuore partecipare a quel pubblico atto di devozione. Di pomeriggio passeggiò un poco e, notando un posto a sedere riparato e comodo vicino alla spiaggia, ci disse di lasciarla sola e di andare a godere i vari siti panoramici vicini, ben conosciuti da lei ma nuovi per noi. Era innamorata del luogo e desiderava che piacesse anche a noi. La sera scese col più splendido tramonto che avessi mai visto. Il castello sulla scogliera sorgeva in gloria, dorato dai raggi del sole che andava scendendo. Le navi lontane lucevano come oro brunito. Le piccole barche vicino alla spiaggia si dondolavano, invitanti, sulla marea montante. Lo spettacolo era di una indescrivibile maestà. Anne fu spostata con la sua poltroncina vicino alla finestra finché godesse di quella vista insieme a noi. Il suo viso si illuminò quasi quanto lo spettacolo che contemplava. Fu detto poco, poiché era evidente che i suoi pensieri erano sospinti da quanto vedeva entrare nella regione di gloria perenne. Rivolse nuovamente il pensiero alle cerimonie religiose ed espresse il desiderio di rimanere sola per permetterci di partecipare alle preghiere in comune con coloro che erano congregati nella casa di Dio. Rifiutammo affettuosamente, facendole presente quanto fossero urgenti il dovere e il piacere di stare vicino a lei, così cara e così debole. Riprendemmo posto vicino al caminetto acceso. Parlò con la sorella di un opportuno ritorno a casa. Non lo desiderava, pensando a se stessa, disse. Temeva che gli altri dovessero soffrire di più se la sua morte avveniva dove si trovava. Probabilmente, pensava che il compito di accompagnare i suoi resti mortali durante un lungo viaggio era più di quanto la sorella potesse sopportare, più di quanto potesse sopportare il padre, privato ancora una volta, se fosse tornata a casa per venire deposta quale terza abitante nella tomba di famiglia nel breve lasso di 9 mesi. La notte trascorse senza alcun peggioramento apparente. Si alzò alle 7 e provvide senza aiuto alla maggior parte delle abluzioni, insistendo per fare da sola. La sorella sempre cedeva su punti di questo genere, pensando che fosse una miglior prova di affetto non sottolineare la sua dipendenza dagli altri per poco che potesse fare da sé. Nulla accadde di allarmante fin verso le 11, quando disse di sentire un cambiamento nelle proprie condizioni. Pensava di non avere più oltre da vivere. Le era possibile giungere a casa viva se ci fossimo immediatamente preparati a partire? Mandammo a chiamare un dottore. Si rivolse a lui con grande compostezza. Quanto tempo ancora le dava? Non esitasse a dirle la verità, visto che lei non aveva paura della morte. Il medico ammise con riluttanza che l'angelo della morte era già al suo fianco e che il flusso della vita scorreva via rapidamente. Lo ringraziò per la sua sincerità ed egli se ne andò per tornare quasi subito. Lei era ancora seduta in poltrona, aveva un aspetto così sereno, così fiducioso. Non vi era posto per una qualsiasi dimostrazione di dolore, benché tutte sapessimo che la separazione era imminente. Giunse le mani e chiese riverentemente la benedizione dall'alto, prima per la sorella, poi per l'amica, alla quale disse: «Sì, sorella, è mia vece. Da a Charlotte quanto più puoi della tua compagnia». Poi ringraziò ciascuna di noi per la nostra affettuosa gentilezza e le nostre attenzioni. Di lì a poco si manifestò l'affanno cagionato dalla fine ormai imminente. La trasportammo sul sofà. Udendoci chiedere se non si sentisse più comoda, ci guardò affettuosamente e disse: «Non siete voi che potete sollevarmi. Ma presto tutto andrà meglio per i meriti del nostro Redentore». E quasi subito, vedendo che la sorella stentava a dominare il dolore, aggiunse: «Coraggio, Charlotte, coraggio». La sua fede non vacillò e gli occhi non le si appannarono fin quando, verso le 2, quietamente, senza un sospiro, passò dal tempo all'eternità. Le sue ultime ore I suoi ultimi istanti furono così quieti, così santi, che non si pensò a chiedere aiuto, non ci fu sgomento. Il dottore venne e se ne andò due o tre volte. La padrona della pensione capì che la morte era vicina, ma la casa fu così poco disturbata dalla presenza dell'agonizzante e dal dolore di quelle che le stavano vicine, che socchiudendo la porta ci fu annunciato che il pranzo era pronto, proprio nel momento in cui la sorella sopravvissuta chiudeva gli occhi di quella che si era spenta e non era più in grado di arginare con la sua ultima insistita raccomandazione: «Fatti coraggio». Il dolore a stento represso dall'altra che finalmente si sfogò in una breve, violentissima esplosione. L'affetto di Charlotte aveva anche un altro modo di manifestarsi, con delicati pensieri, cure e tenerezza. Il suo strazio era grande, ma non era sola. Una calda simpatia le era a fianco ed ella l'accettò. Con calma considerarono quanto andava fatto per ricondurre i cari resti mortali della loro ultima dimora presso la casa paterna. Questa triste incombenza non fu però portata a termine, perché la sorella sopravvissuta decise, in ultima analisi, di deporre il fiore reciso là dove era caduto. Pensava che questa soluzione concordasse con il desiderio di colei che se n'era andata. Non aveva espresso alcuna preferenza sul luogo, non aveva pensato alla tomba che non è se non la custode del corpo, ma si era concentrata su quanto si trova al di là. I suoi resti mortali riposano dove il sole riscalda la ormai cara zolla, dove le onde dell'oceano lavano e battono l'erbosa roccia scoscesa. Anne morì di lunedì. Il martedì Charlotte scrisse al padre, sapendo che la sua presenza era richiesta a Haworth da una annuale solennità religiosa. Lo informò che aveva preso tutte le misure necessarie per la sepoltura e che il funerale si sarebbe svolto prestissimo, tanto da rendergli impossibile giungere in tempo per presenziarvi. Il medico che aveva assistito Anne nell'ultimo giorno di vita offrì di essere presente, ma la sua proposta fu rispettosamente declinata. Mr. Bronte scrisse insistendo perché Charlotte si trattenesse un po' più a lungo al mare. La sua salute e il suo morale erano tristemente scossi e per quanto egli naturalmente bramasse di avere presso di sé l'ultima figlia che gli rimaneva, pensava fosse giusto indurla a trascorrere con l'amica alcune settimane, lontana dal solito ambiente, anche se ciò non poteva distoglierla dal pensiero del momento. Agli ultimi di giugno le amiche tornarono a casa, separandosi piuttosto bruscamente là dove il loro itinerario divergeva. Luglio 1849. Avevo l'intenzione di scriverti una riga oggi, se non avessi ricevuto la tua lettera. Ci siamo veramente separate bruscamente. L'esserci allontanate l'una dall'altra, senza avere il tempo di scambiarci una parola, mi ha fatto veramente soffrire, ma forse è meglio che sia stato così. Sono arrivata a casa un po' prima delle 8, tutto era pulito e lustro per ricevermi. Papà e le domestiche stanno bene e tutte mi hanno accolta con un affetto che avrebbe dovuto essere consolatore. I cani sembravano in estasi. Sono certa che mi hanno considerata come la staffetta di altri arrivi. Quelle creature mute pensavano che, siccome io ero ritornata, le due assenti non potevano essere lontane. Ho lasciato papà quasi subito e sono andata in sala da pranzo, ho chiuso la porta, ho tentato di essere contenta di ritrovarmi a casa. Prima ne avevo sempre avuto gioia, eccettuato una sola volta, e anche allora mi ero sentita sollevata. Ma questa volta non c'era nessuna gioia. Ho sentito la casa immersa nel silenzio, le stanze tutte vuote, mi sono rammentata di dove giacevano gli altri tre in strette, oscure dimore per non ricomparire mai più sulla terra. Si impossessò di me un senso di desolazione, di amarezza. Mi dominò un'agonia che doveva essere sopportata, che non si poteva evitare. L'accettai e trascorsi una desolata serata, una cupa notte, una mattinata dolorosa. Oggi sto meglio. Non so come trascorrerà la vita per me, ma mi sento piena di fiducia in colui che fin qui mi ha sostenuta. La solitudine può essere alleviata, resa sopportabile più di quanto si crederebbe. La grande prova incomincia quando cala la sera e la notte si fa imminente. In quell'ora eravamo solite riunirci in sala da pranzo a parlare, ora siedo sola, forzatamente silenziosa. Non posso impedirmi di pensare ai loro ultimi giorni, di rammentare le loro sofferenze, quello che dicevano, che facevano e l'aspetto che avevano nell'ultima ora. Forse tutto questo si farà meno straziante col passare del tempo. Lascia che ti ringrazi una volta di più, cara E, per l'affettuosa sollecitudine nei miei confronti che non intendo dimenticare. Come hai trovato tutti i tuoi a casa? A papà sembra un po' irrobustita, ha detto che ho gli occhi meno infossati. 14 luglio 1849. Non mi piace granché rendere conto di me stessa. Preferisco evitarlo e parlare di qualcosa che sia più gradevole. Il raffreddore, sia che l'abbia preso a Easton o da qualsiasi altra parte, non è ancora passato. È incominciato come raffreddore di testa, poi ho avuto mal di gola con tosse, ma una tosse di poco conto che ricompare ogni tanto. Un dolore alla schiena mi ha assai sorpresa. Non fare commenti in proposito, perché ti confesso che sono troppo incline a innervosirmi. Questo nervosismo mi accompagna come un orribile spettro. Non oso parlare della mia indisposizione a papà. La sua ansia mi lacera il cuore. La mia vita è quale mi aspettavo dovesse essere ormai. A volte, quando mi desto, sapendo che la solitudine, i ricordi e un vano rimpianto saranno miei unici compagni lungo tutta la giornata, che scesa la notte verranno a letto con me e che a lungo mi impediranno di prender sonno e che la mattina al risveglio li troverò in attesa, a volte, Nel, mi sento un cuore di piombo. Tuttavia non sono vinta, né sono priva di speranze, di progetti, ho forza sufficiente per combattere la battaglia della vita. So di avere molti motivi di conforto e lo riconosco, molte cose di cui essere grata, posso ancora andare avanti. Ma spero e prego che mai tu o chiunque altri mi è caro venga a trovarsi nella mia attuale condizione. Sedere in una stanza vuota e solitaria, udire il pendolo che scandisce il silenzio di una casa immobile, avere davanti agli occhi della mente l'anno appena trascorso con le sue angustie, le sue pene, le sue perdite. Oh, è una prova. Ti scrivo liberamente perché so che mi ascolterai compostamente. Non ti allarmerai né mi penserai in condizioni peggiori di quanto non sia.